terzo anello, ad alta voce. Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll, per Edizioni Feltrinelli. Le aragoste fan quadriglia. La tartaruga d'Egitto sospirò profondamente e si asciugò gli occhi col dorso di una pinna, guardò Alice e cercò di parlare, ma per un minuto o due non emise che singhiozzi. «Neanche le fosse andata di traverso una lisca», disse il grifone, e si mise a scuoterla e a darle delle gran pacche sul guscio. Finalmente la tartaruga d'Egitto recuperò la voce e, con le guance rigate di pianto, riprese a parlare. «Forse non avrai vissuto molto in fondo al mare». «Infatti», disse Alice, «e forse non sei mai stata presentata a una aragosta». Alice cominciò a dire: «Una volta ne ho assaggiato», ma si fermò in tempo e disse: «No, mai! E quindi non puoi nemmeno immaginare che delizioso spettacolo sia una quadriglia di aragoste!» «Infatti», disse Alice, «che razza di ballo è?» «Dunque», disse il grifone, «prima ci si mette in fila lungo la spiaggia». «In due file!» gridò la tartaruga d'Egitto. «Foche, tartarughe e così via. Poi, quando hai fatto piazza pulita delle meduse...» «Cosa che di solito porta via un bel po' di tempo», interruppe il grifone. «Fai due passi avanti». «Ognuno in coppia con una aragosta», gridò il grifone. «Va da sé», disse la tartaruga d'Egitto. «Fai due passi avanti, un inchino alla dama». «Changez les aragostes e ricomponiamo i ranghi», continuò il grifone. «Poi attenta», continuò la tartaruga d'Egitto, «scagliele!» «Le aragoste!» gridò il grifone spiccando un gran balzo. «E in mare più lontano che puoi!» «Le rincorri a nuoto!» strillò il grifone. «Capriola acquatica!» gridò la tartaruga d'Egitto piroettando e contorcendosi selvaggiamente. «Encore, changez les aragostes!» urlò il grifone. «Si riva a riva e fine della prima figura», disse la tartaruga d'Egitto con voce improvvisamente spenta, e le due creature, che avevano continuato a saltabeccare qui e là come invasate, tornarono a sedersi moge moge e guardarono Alice con immensa tristezza. «Ah, deve essere proprio un amore di quadriglia», disse Alice. «Ti piacerebbe vederne un saggio?» disse la tartaruga d'Egitto. «Altro che!» disse Alice. «Proviamo la prima figura!» disse la tartaruga d'Egitto al grifone. «Possiamo farla anche senza aragoste, sai? Chi canta?» «Tu, per forza!» disse il grifone. «Io mi sono dimenticato le parole!» Così aprirono solennemente le danze, facendo girotondo attorno ad Alice, pestandole un'alluce di tanto in tanto quando le passavano troppo vicino e dondolando le zampe anteriori per segnare il ritmo, mentre la tartaruga d'Egitto prendeva a cantare con voce strascicata e tristissima. «Vuoi sgusciare un po' più in fretta?» disse tonno a lumachina. «C'è qui un polpo che ci insegue, mi sta proprio su una spina. Aragoste e tartarughe, già quadriglian con baldanza. Siamo attesi sulla spiaggia, la permetti questa danza? Vero o no, è vero o no, che permetti questa danza? Vero o no, è vero o no, che permetti questa danza? Non immagini neppure che delizia si nasconda nel venir con le aragoste sbalestrati in mezzo all'onda. Ma diffida, lumachina, a troppo al largo, che distanza! Tante grazie, signor tonno, non permetto questa danza. Vorrei sì, ma grazie no, non permetto questa danza. Vorrei sì, ma grazie no, non permetto questa danza. Ma che importa la distanza? Le ribatte il viscidone. C'è una terra dopo il mare, sai, in quella direzione. situazione. Non capiscono, davvero. La tua strenua intolleranza. Vieni qua, cara lumaca, e permettimi sta danza. È vero o no, è vero o no, che permetti questa danza? È vero o no, è vero o no, che permetti questa danza? Tante grazie, molto interessante come danza, disse Alice, sentendosi sollevata adesso che finalmente era finita. E quanto mi piace questa strana canzone sul tonno. Oh, quanto ai tonni, disse la tartaruga d'Egitto. Ti sarà capitato di vederli, immagino. Sì, disse Alice, ne ho visti spesso a Pran. Si interruppe appena in tempo. Non ho idea di dove si trovi Pran, disse la tartaruga d'Egitto, ma se li hai visti così spesso, saprai certo che faccia hanno. Credo di sì, rispose Alice pensierosa, sono rotondi, a forma di scatola, e sono tutti fatti a pezzettini. Pezzettini! Tu vaneggi! Disse la tartaruga d'Egitto. I pezzettini verrebbero lavati via in un fiat nel mare. È vero che sono a forma di scatola rotonda, e sai perché? A questo punto la tartaruga d'Egitto sbadigliò e chiuse gli occhi. Diglielo tu il perché e anche il per come, disse al grifone. Or dunque, disse il grifone, i tonni avevano voluto andare a ballare con le aragoste. Di conseguenza erano dei portoghesi e furono fatti volare in mare. E di conseguenza, siccome il volo non finiva mai, cominciarono a girargli le scatole. Di conseguenza gli girarono talmente tanto che finirono per diventare tondi e non riuscirono più a cambiare forma. Ecco perché. Grazie, disse Alice, molto interessante. Mai saputo tanto sul tonno in vita mia. Oh, posso dirti altro che questo, disse il grifone. Sai perché si chiama tonno? Non ci ho mai pensato, disse Alice. Perché? Lo usano negli atelier, proclamò il grifone solennemente. Negli atelier, ripeté Alice con tono incantato. Sì, per la collezione autunno-inverno sono indicati i tonni caldi. Per le situazioni informali va benissimo il tonno sportivo. In ogni caso è indispensabile il sandwich francese di tonni. Sarebbe a dire? Domandò Alice stupefatta. Il tonno sur tonne, no? E quali sono i capi più di moda? Papaline, mante a rompi con la cernia sul davanti e scarpe nei colori muggine o verdone, rispose il grifone con malcelata impazienza. Queste cose te le può dire qualsiasi pesce ago. Se io fossi stata al posto del tonno, disse Alice, i cui pensieri ruotavano ancora attorno alla canzone, avrei detto al polpo, stalle larghe per piacere, non ti vogliamo con noi. Erano obbligati ad avercelo alle calcagna, disse la tartaruga d'Egitto. Un pesce chic è immancabilmente in compagnia di un polpo. Ma dici sul serio? Disse Alice passando di sorpresa in sorpresa. Certo, disse la tartaruga d'Egitto. In ogni storia deve esserci sempre un polpo di scena. E poi, se un pesce venisse da me per annunciarmi che mi lascia, io gli risponderei, ti venisse un polpo! Volevi dire un colpo? Volevo dire esattamente quel che ho detto, rispose la tartaruga d'Egitto, offesa. E il grifone aggiunse, dai, adesso facci ascoltare le tue di avventure. Potrei raccontarvi le mie avventure cominciando da stamattina, pigolò Alice, ma sarebbe inutile risalire a ieri, perché allora ero una persona del tutto differente. Spiegati meglio, disse la tartaruga d'Egitto. No, no, prima le avventure, disse il grifone con tono impaziente. Le spiegazioni portano via tanto di quel tempo. Così Alice prese a raccontare le sue avventure a partire dalla prima volta che aveva visto il coniglio bianco. Da principio la cosa la inquietava un po'. I due animali le stavano così a ridosso uno per parte e tenevano gli occhi e le bocche così spalancati. ma più andava avanti, più prendeva coraggio. I suoi ascoltatori se ne rimasero buoni finché non arrivò al punto in cui recitava al bruco «Caro vecchio buon papà», con tutte le parole cambiate. A quel punto la tartaruga d'Egitto tirò un profondo sospiro e disse «Molto strano». «Più strano di così si muore», disse il grifone. «Tutte le parole cambiate», ripeté la tartaruga d'Egitto pensierosa. «Mi piacerebbe sentirla provare a ripetere qualcosa adesso. Dille di cominciare pure». E guardò il grifone come se gli riconoscesse una certa autorità su Alice. «Alzati in piedi e recita, questa è la voce del Fanagotta», disse il grifone. «Qui tutti gli animali continuano a darti ordini e a farti recitare le lezioni», pensò Alice. «Tanto varrebbe essere a scuola». Tuttavia si alzò e cominciò a ripeterla, ma aveva la testa così sottosopra per via della quadriglia delle aragoste che faceva fatica a rendersi conto di quello che diceva e le parole le uscirono fuori un po' strampalate. «Questa è la voce dell'aragosta che si lamenta e che protesta. Non mi scottate, son già tosta, ho troppo sole sopra la testa. Come un pavone con la sua coda, così la lady non bada a spese, sfoggia le chele all'ultima moda, tutta in paillette di maionese. Quando la spiaggia è ancora asciutta, si fa venire gaie mattane e a mo' di scherno pinza e sculetta. Chi c'ha paura del pesce cane? Ma quando sale l'alta marea i mille squali battono il crawl, con l'acqua in bocca resta in apnea e non la senti far neanche oh!» «Completamente differente da come ero abituato a sentirla io da bambino», disse il grifone. «Ah beh, quanto a me, mai sentita prima», disse la tartaruga d'Egitto, «ma mi pare insolitamente assurda». Alice non disse niente, si mise a sedere nascondendosi la faccia fra le mani, chiedendosi se qualcosa avrebbe mai ripreso a girare per il suo verso di sempre. «Non mi spiacerebbe se me la spiegassi», disse la tartaruga d'Egitto. «Non è in grado di spiegartela», si affrettò a dire il grifone. «Va avanti con la prossima strofa». «Ma questa faccenda delle pagliette di maionese», insisteva la tartaruga d'Egitto. «Almeno sapere chi era il suo stilista!» «Oh, spendacciona com'era, doveva averne parecchi», disse Alice, ma si sentiva così spaesata che non vedeva l'ora di cambiare argomento. «Dai la prossima strofa», insisté il grifone, «finché un bel giorno e...» Alice non osò disubbidire, anche se sapeva che tutte le parole si sarebbero accavallate come al solito, e con voce tremante proseguì. «Finché un bel giorno, o meglio una sera, lì dalle suore con aria assorta, ti vedo il gufo con la pantera sbocconcellarsene una un po' morta, ma la pantera in un baleno si presce cosce, petto ed ossario, e la testina con il ripieno, lasciando al gufo saio e rosario. Quando la suora fu tutta assunta, il gufo allora potenta scarne, quale graziosa speciale aggiunta, tutte le briglie e un po' di carne, ma la pantera insoddisfatta chiede il dessert, la mangia a ufo e con un balzo d'ottima fatta e un gran muggito si mangia il...» «Che senso ha recitare tutta questa solfa?» la interruppe la tartaruga d'Egitto. «Se poi non ce la spieghi, è di gran lunga la poesia più macellaia che abbia mai sentita». «Sì, anch'io credo che faresti meglio a troncarla lì», disse il grifone ad Alice, che fu ben contenta di ubbidire. Wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Bad luck drinking trouble's my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't a bad luck, I wouldn't have no luck at all. No wine and women, it's all I crave. The big bad woman, they're gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Vogliamo provare un'altra figura della quadriglia delle Aragoste? Propose il grifone. O preferisci che sia la tartaruga d'Egitto a cantarci qualcosina? Oh sì, una canzone per favore, se alla tartaruga d'Egitto non dispiace, fece eco Alice con tale fretta che per poco il grifone non si offese. Tutti i gusti son gusti, cantale il brodo delle star, falla contenta vecchia mummia. La tartaruga d'Egitto tirò un sospiro infinito e con voce rotta, qui e là dai singhiozzi, prese a cantare. Oh, brodo di staro, doppio sapore, del brodo di carne, tu sei il successore, dalla fondina d'oro zecchino, sale un sapore distrutto equino. Oh, brodo, bel brodo, oh, che bel brodo, brodo, bel brodo, come godo, brodo, brodo, bel brodo, ti lodo, bel brodo, ti lodo, brodo di sera, bel sonno. Si spera, chi se ne frega di arrosti e lessi, noi solo brodo, mica siam fessi, chi non darebbe un occhio per l'odorino, che sale su dal bel brodo, brodo, bel brodo, è bello todo, il brodo bello delle star! Tacabanda! Gridò il grifone e la tartaruga d'Egitto non aveva ancora cominciato a ripetere il ritornello che in lontananza si udì un urlo. Comincia il processo! Seguimi! Gridò il grifone e, presa per mano Alice, la trascinò via senza attendere la fine della canzone. Di che processo si tratta? Chiese Alice ansante per la corsa. Seguimi, disse il grifone per tutta risposta, accelerando ulteriormente l'andatura, mentre sempre più deboli, portate dalla brezza che spirava alle loro spalle, si dileguavano le note malinconiche della tartaruga d'Egitto. Brodo crepuscolare, brodo bellissimo da sorbettare. All going on their merry way, just watch the children grow. Zipping down the motorway, there everywhere you go. All of a sudden I'm out in the street and I'm wondering which way to go. Looking behind me I see where I've been, and there's someone who thinks that he trusting in your government, still waiting in the queue, all of us trying to build and discover a world that we once knew before. Too many takers with nothing to give, and they're still always asking for more. Standing up for righteousness, we're gathered here today, all waiting for a savior. Are sure he's on his way. Aldo Busi ha letto Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll per Edizioni Feltrinelli, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it